piano. Di Enrico Ruggeri. Più lo sport fa passi avanti e più si assottigliano le distanze tra i vari atleti. Ormai in molte specialità siamo ai centesimi di secondo, ai millesimi di secondo nell'automobilismo, per esempio. Quindi ormai il tempo è una variabile fondamentale e tutto si gioca sul filo dei secondi. Addirittura può succedere anche negli sport di squadra, nel basket, dove ci sono i cronometri, il tempo effettivo di gioco, quindi partite che magari si mantengono in equilibrio fino agli ultimi attimi, con una vittoria che magari scaturisce da un canestro fatto quasi sulla sirena. La sirena è quella che sancisce la fine della partita. Bene, oggi raccontiamo la storia del canestro più famoso della pallacanestro, la storia di un russo che si è trovato nel punto giusto al momento giusto, e quando dico momento giusto intendo al centesimo di secondo giusto. Peraltro ha fatto un'impresa che ha rischiato di fare scoppiare la terza guerra mondiale. Stiamo parlando di Alexander Bielov da Leningrado, e stiamo per raccontare la sua storia grazie anche alla segnalazione di un nostro ascoltatore, Manolo Caglioni, che salutiamo. 9 novembre 1951, Leningrado. Magari ci sarà qualche ascoltatore più giovane che rimane spiazzato dal nome Leningrado. La città in realtà oggi si chiama San Pietroburgo, per secoli si era chiamata Pietroburgo, ma nel periodo, diciamo, stalinista, nel periodo del comunismo, venne cambiato nome a questa città e venne chiamata Leningrado in omaggio ovviamente a Lenin. Nel 51 la seconda guerra mondiale è finita da poco, l'Unione Sovietica si chiama ancora così, URSS, come la leggiamo noi, i paesi occidentali sono guardati da loro con molto sospetto, e il 9 novembre nasce questo bambino, Alexander Alexandrovich Bielov. Non si sa nulla della sua infanzia, perché sono gli anni in cui, al di là della cortina di ferro, poco si racconta. Ci immaginiamo la classica infanzia del blocco comunista, quindi un'infanzia molto stereotipata, uguale per tutti. Dall'altra parte del mondo c'erano i paesi della NATO e nulla filtrava. Leningrado è una città particolare nell'Unione Sovietica, perché è la più europea delle città sovietiche, e viene da una storia gloriosa ma dimenticata, e non è un caso che sia stata dimenticata nella stessa Unione Sovietica, cioè quella dell'assedio di 900 giorni durante il secondo conflitto mondiale. Gli eroi di quella guerra furono dimenticati, alcuni di questi caddero in disgrazia, e questo mi ha dato poi l'opportunità di immaginare che la sorte che è toccata a molti leningradesi dopo la fine della seconda guerra mondiale fosse toccata anche ai genitori di Alexander Bielov. Questa è la voce di Emiliano Podi, uno scrittore, ha scritto un libro che si chiama Le vittorie imperfette, e ha raccontato anche la storia di Alexander Bielov, e spesso, soprattutto per l'infanzia, si è dovuto basare su supposizioni, perché reperire delle notizie è praticamente impossibile. Di Alexander Bielov sappiamo che rimane orfano da piccolo, sappiamo che è un ragazzo molto alto, quasi 2 metri, e che quindi viene indirizzato verso il gioco della pallacanestro. La scuola sovietica ha sempre dato enorme importanza allo sport, soprattutto per fini propagandistici. Eccellere vuol dire essere l'esempio per tutto il popolo, soprattutto quando una squadra occidentale viene affrontata da quella che è la squadra russa, anzi sovietica, che rappresenta il blocco comunista e la sua rivoluzione. Alexander Bielov è uno forte. Nel 66, a 15 anni, entra a far parte dello Spartak di Leningrado. A Mosca regna la troica, Leonid Brezhnev e poi Kosygin e Podgorny, i nomi che per noi sono legati alla guerra fredda, Kennedy, ai gulag, al muro di Berlino. È un periodo che è durato quasi 50 anni, è un periodo nel quale gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si sono affrontati a muso duro, si sono alleati solo quando c'era da combattere il nazismo, ma comunque si sono sempre guardati in cagnesco. E poi è arrivata la crisi di Cuba e si è sfiorata la guerra, e poi sono arrivate le armi nucleari. Qualsiasi occasione è sempre stato un motivo di sfida. Per fortuna, in qualche modo, ci sono stati anche dei motivi non congruenti, come la corsa allo spazio e soprattutto le battaglie sportive. E ognuno, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ha coltivato i propri talenti per ottenere grandi risultati, ma anche per cercare di umiliare il rivale. La politica nell'Unione Sovietica era onnipresente e quindi lo sport non, in questo senso non faceva eccezione. Dobbiamo immaginare che erano anni quelli in cui Stati Uniti e Unione Sovietica si fronteggiavano a tutti i livelli e per fortuna non arrivarono a fronteggiarsi direttamente con le armi, anzi c'è chi sostiene che sia stato un bene per l'umanità che ci fossero altri terreni in cui le superpotenze potessero sfogarsi. Uno di questi era lo spazio e l'altro era proprio lo sport. Il campionato nazionale di basket è un campionato di regime. Quando i campionati sono campionati di regime, vince quasi sempre una squadra. In questo caso il CSKA Mosca, che ha un dominio dal 58 all'84 quasi ininterrotto. C'è una qualche sporadica occasione, come nel campionato 74-75 vinto dallo Spartak di Leningrado. Nel CSKA gioca Sergei Bielov, forse il giocatore più forte di quegli anni, mentre l'altro, Alexander, gioca a Leningrado. I due peraltro non sono parenti, non sono fratelli, però insomma è un cognome che segna la storia del basket. È un atleta, è il simbolo del proletariato, quindi non può lasciare il suo paese, quindi i destini sportivi dei due Bielov sono legati indissolubilmente alla Russia, cioè all'Unione Sovietica. Il falco e il gabbiano. Sergei e Alexander Bielov sono avversari in campionato, giocano uno nel CSKA Mosca, l'altro nello Spartak di Leningrado, ma quando si tratta di difendere i colori sovietici sono fianco a fianco, e nel difendere i colori della loro patria difendono soprattutto gli ideali della rivoluzione comunista. Nel basket la Russia sta dominando, non c'è squadra forte come loro, tutt'al più ogni tanto arriva la Jugoslavia a contrastare questa egemonia. Nel 71 c'è anche l'Italia che arriva terza ai campionati europei, un'Italia mitica con Recalcati, Flaborea, Bariviera, Marzorati e il giovanissimo allora Dino Meneghin. Insomma, dopo aver vinto due edizioni consecutive dei campionati europei, la nazionale sovietica si presenta all'appuntamento delle Olimpiadi di Monaco di Baviera 1972, e qua però il baricentro si sposta, perché a dominare nel mondo sono gli Stati Uniti, che hanno una tradizione sul basket che risale agli inizi del secolo, un po' come quello che sono gli inglesi per il calcio. Gli statunitensi sono forti della loro tradizione, di una indiscussa superiorità tecnica, tanto che loro hanno sempre schierato in quegli anni nelle Olimpiadi non i professionisti, che peraltro non potevano giocare in quanto professionisti, cioè i mitici giocatori dell'NBA, schieravano semplicemente atleti dilettanti provenienti dai college, ma comunque la differenza era enorme tra loro e il resto del mondo, tant'è che nelle prime 7 edizioni delle Olimpiadi gli Stati Uniti hanno sempre vinto la medaglia d'oro. Sì, questa era una tendenza che nasceva dalla regola delle Olimpiadi che ospitavano soltanto giocatori non professionisti. Siccome la Lega di Basket, la NBA, era invece appannaggio dei professionisti, era automatico che loro non potessero giocare. Però in effetti fino a quell'edizione olimpica schierare i ragazzi dei college era stato più che sufficiente. Arab terrorists went to the headquarters of the Israeli team and immediately killed one man. They've been holding others hostage since then, and the latest report is that one more has been killed. Eh sì, a Monaco succede la tragedia, lo sapete, ne abbiamo parlato più volte, Settembre Nero, che compie un attentato nella notte tra il 5 e il 6 settembre al villaggio olimpico, con una strage di 11 atleti israeliani, insomma una tragedia per il mondo, un mondo che però non si ferma, le Olimpiadi non si fermano. La tragedia dell'attentato al villaggio olimpico avviene 3 giorni prima della finale di basket, ed è una finale nella quale sono di fronte Stati Uniti e Unione Sovietica. Qualcuno vuole posticipare la partita, a Monaco sono giorni di confusione, però prevale il principio per il quale lo spettacolo va fatto continuare, e la teoria è cercare di riportare alla normalità le cose in una manifestazione che nel frattempo aveva perso molti dei significati di comunione e fratellanza che erano tipici dello spirito olimpico. They go for the gold medal tonight, the youngest team ever to represent the United States, and I might add, the tallest ever to represent the United States. Russia controlling the action. Bill Russell, we may as well point out right away that Russia is a very methodical team. They've been together for about 7 years, and they work like a machine. 9 settembre 1972, il commentatore americano è molto chiaro: la Russia è una squadra metodica che gioca assieme da molti anni, è una macchina perfetta, gli Stati Uniti sono il genio dei grandissimi campioni dei college, quindi teoricamente sarebbero superiori, però questa volta hanno paura a affrontare quella nazionale che hanno sempre battuto con grande facilità. Però questa volta l'Unione Sovietica è in crescita, vuole vincere, schierano i giocatori migliori, che peraltro non sono solo russi, arrivano dall'Ucraina, dall'Estonia, dalla Lituania, tutti sono uniti sotto la bandiera delle repubbliche socialiste sovietiche e vogliono sconfiggere il nemico americano. E questa volta la partita è molto equilibrata, prevalgono le difese, questa volta gli Stati Uniti non maramaldeggiano, anzi si segna pochi canestri. Le squadre più prolifiche del torneo, Stati Uniti e Unione Sovietica, segnano pochissimo in questa partita. I primi minuti in particolare sembrano una specie di trasposizione della Guerra Fredda, perché è un equilibrio basato proprio sul nervosismo reciproco, però in questo equilibrio la spunta l'esperienza maggiore dell'Unione Sovietica, che prende 4-5 punti di vantaggio e se li porta avanti per tutto il primo tempo, che fra l'altro si chiude con il canestro più bello della partita, che profeticamente è quello di Alexander Bielov, che in avvitamento fa canestro. A quell'epoca non ci sono 4 tempi, si gioca 20 minuti per tempo effettivi, e nel frattempo la Guerra Fredda ha anche altre espressioni, per esempio gli scacchi, e la finale del mondiale di scacchi che si gioca a Reykjavik, nella quale Bobby Fischer, l'americano, sconfigge l'egemonia russa, in quel caso rappresentata da Boris Spassky. Ma torniamo alla nostra partita: gli americani vogliono vincere per l'ottava volta consecutiva le Olimpiadi, non hanno fatto però i conti con la squadra russa e per esempio con Alexander Bielov, che in quella partita sta per vivere il suo più grande colpo d'ala, un colpo d'ala che potrebbe trasformarlo in un eroe per la sua nazione. I'm not afraid to die. Falco e il Gabbiano torna tra poco, qui su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino. TrentoDoc.com. Il Falco e il Gabbiano. Siamo al 9 settembre 1972, stiamo raccontando la storia di Alexander Bielov e la sua giornata più grande, la giornata più grande della sua vita. Siamo alla finale delle Olimpiadi di Monaco, la finale del torneo di basket, e gli Stati Uniti stanno cominciando a rischiare contro l'Unione Sovietica. La partita si sta giocando in un clima surreale. Pochi giorni prima c'era stata la strage degli atleti israeliani nel villaggio olimpico, a opera di Settembre Nero. Nel mondo il confronto tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si sta protraendo in una logorante guerra fredda fatta di sfide continue nello spazio, negli scacchi, abbiamo detto, con Spassky e Fischer, nello sport in generale, e qui nel basket il regno sarebbe statunitense. 7 edizioni vinte, cioè tutte. Questa volta però tutto potrebbe cambiare, anche perché il basket russo ha fatto grandi passi in avanti, quindi il divario non è più ampio come una volta. Running the clock out. Belov. Shot clock by McMillan. But the Russians recover, now intercepted. 5 seconds. 4 seconds. Doug Collins goes into the basket support. Eh sì, siamo sul filo dei secondi. L'Unione Sovietica stava vincendo 49-48, vedete, punteggio bassissimo per il basket. Oggi assistiamo a partite che finiscono 110-105. 49-48, e proprio Alexander Bielov negli ultimi secondi sbaglia un canestro che avrebbe portato l'Unione Sovietica a 51-48, cioè sbaglia il colpo della vittoria. Gli americani recuperano il rimbalzo, Doug Collins va a fare canestro, subisce fallo, 2 tiri liberi, e lui, Collins, quando sul tabellone mancano 3 secondi alla fine della partita, questi tiri liberi, malgrado la pressione, li realizza entrambi, e quindi si va sul 50-49 per gli Stati Uniti. Mancano 3 secondi, sembra tutto finito. Emiliano Podi ha raccontato questa partita in un libro chiamato Le vittorie imperfette, e lui ci spiega cosa accade dopo. E William Jones, che è il presidente della Federazione Internazionale di Basket, entra in scena a un certo punto di questo finale controverso per cercare di ristabilire un po' di ordine in campo. Su di lui poi verranno dette tantissime cose, che era filosovietico, che era addirittura una spia. E molto probabilmente anche lui fu vittima di quella confusione, e tutt'al più si potrebbe dire che, essendo non americano ma britannico, ed essendo a capo della federazione, volesse che per una volta non fosse a vincere la solita squadra, cioè gli Stati Uniti, che per l'ottava volta avrebbero vinto. Perciò lui per 2 volte stabilirà nel finale che il cronometro dovrà essere rimesso indietro di 3 secondi. 3 secondi. Lo sapete che quando una squadra subisce il canestro deve partire da dietro, non è come a calcio che parti da centrocampo. Quindi 3 secondi a disposizione per i russi, che hanno ancora l'ultima possibilità. Il gioco riprende e la palla arriva a Alexander Bielov. Lui si fa largo tra 2 giocatori americani, arpiona la palla, 2 spallate agli avversari e poi tira a canestro. Mentre la palla sta entrando, suona la sirena. Now the clock shows 3 seconds. There is time for the Russians to go to their big man, Alexander Belov. They're going to try. Alexander Belov. Between 2 American defenders. Back there with him, Jim Forbes and McMillan. And the Russian team has robbed Alexander Belov. And this time it is over. And this time it is over. Questa volta è finita, sono le parole laconiche del commentatore americano che vede la sua squadra perdere la medaglia d'oro per la prima volta in 8 edizioni. È una disfatta che non è solo una sconfitta sportiva, è un vero e proprio smacco agli Stati Uniti, la rivincita che compensa la sconfitta di Boris Paskin negli scacchi. Però tutto questo, ripeto, avviene con una palla che entra mentre suona la sirena e quindi ci sono proteste ufficiali degli americani, e in campo c'è una confusione indescrivibile, si elencano le irregolarità subite e il risultato comunque viene omologato. Il canestro di Alexander Bielov è buono e lui diventa l'eroe della patria e della partita. E si rosica molto alla premiazione, accade un fatto unico, la squadra americana non si presenta a ritirare la medaglia d'argento, il secondo gradino del podio rimane vuoto, quindi contro qualsiasi spirito decubertiniano. Le medaglie d'argento sono custodite ancora oggi in un caveau di una banca svizzera, nessun americano ha voluto ritirarle, neanche dopo il crollo del muro di Berlino, anche dopo la fine della guerra fredda. I giocatori americani sono convinti ancora oggi di essere stati derubati della vittoria, di aver subito un abuso che nessuno potrà mai riparare. Alcuni giocatori hanno addirittura disposto nel loro testamento che nessuno dei loro figli o nipoti possa ritirare in futuro quella medaglia d'argento, simbolo di una sconfitta così difficile da digerire per gli americani, che sono troppo spesso abituati a pensare di essere i migliori del mondo sempre e comunque, anche quando non lo sono. Intanto Alexander Bielov torna in patria come un eroe, ha una carriera spalancata verso un futuro brillante. Però di quello che è accaduto dopo quella incredibile partita di Monaco 72 sappiamo veramente molto poco. Poco trapela. Sappiamo che Bielov vince ancora, vince un argento ai campionati europei di basket del 73, perché la Jugoslavia batte l'Unione Sovietica, poi vince l'oro ai mondiali del 74 a Porto Rico con la Jugoslavia seconda e gli Stati Uniti addirittura terzi. Sappiamo però anche che nel 77 viene espulso dalla nazionale per essere stato arrestato per contrabbando di jeans. Eh sì, e in quei tempi con quel comunismo succedevano anche queste cose, si rischiava la reputazione per un paio di jeans. Però in realtà probabilmente dietro a questo arresto c'è la voglia di ridimensionarlo agli occhi della gente, di sporcargli la fedina penale per impedirgli di rispondere alle sirene estere magari dell'NBA americana. Non è accettabile che l'eroe di quella partita vada a giocare negli Stati Uniti per guadagnare dei soldi, cosa ovviamente contraria allo spirito sovietico. E poi c'è un tumore rarissimo, un angiosarcoma al cuore, che uccide Alexander Bielov il 3 ottobre 1978. Lui ha solo 26 anni, la notizia viene totalmente ignorata dai giornali. E noi, per ricordare quella partita storica, avevamo bisogno di qualcuno che la storia la incarnasse, e quindi abbiamo con noi l'immenso Dino Meneghin, che in quell'Olimpiade peraltro c'era, la giocata difendendo i colori azzurri. Buongiorno Dino. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Noi stiamo raccontando la storia di forse del canestro più famoso della storia del basket, no? E di quella nazionale. Allora, la prima domanda che ti faccio, tu che li hai visti da vicino, che ci hai giocato, loro erano forti come squadra o come individualità? Cioè erano pronti per un eventuale sbarco in NBA? Allora è ovviamente impensabile. Ma penso di sì. Loro hanno avuto purtroppo la sfortuna di nascere in Russia, certo, in quel periodo, certo, sotto il regime comunista, e questo ha impedito loro di avere quello scambio interculturale, diciamo, soprattutto di tecnica, che sicuramente li avrebbe migliorati. Fosse nato negli Stati Uniti sicuramente avrebbe giocato nell'NBA, sarebbe stato sicuramente uno dei, non dico uno dei migliori, ma comunque un buonissimo giocatore dell'NBA, perché lui era un 2 metri rotti, 2 metri e 4 più o meno, aveva buona tecnica, un fisico pazzesco, saltatore, rimbalzista. Sarebbe stato sicuramente un ottimo giocatore anche nell'NBA di quel tempo. Senti Dino, tu sicuramente quella partita l'hai vista e immagino anche rivista. È vero che c'era un clima veramente surreale, peraltro erano passati 3 giorni dalla strage del villaggio, no? Era una partita veramente strana? Ma direi strana no, diciamo che c'era una grossa attesa perché era sempre uno scontro di due scuole, quella americana e quella sovietica. Diciamo. Certo. Al di là di questo c'era anche un fatto politico di dimostrare che l'Unione Sovietica, nonostante tutto, certo, era allo stesso livello degli Stati Uniti, quant'altro. Negli Stati Uniti c'erano dei grandissimi giocatori e d'altro canto anche nella squadra sovietica. Ma... E quindi c'era una grande attesa di quella partita. Tutti quanti davano per scontato la vittoria degli Stati Uniti. Degli Stati Uniti. E invece poi la Russia ha messo in campo veramente una grande forza, una solidità mentale oltre che tecnica, e una difesa di quelle arcigne dure che ha messo in crisi gli Stati Uniti, che non sono stati così dominanti come in altre situazioni. Ci furono degli errori arbitrali, come dicono gli Stati Uniti? Ma guarda, lì purtroppo allora non c'era l'instant replay, qualcosa che adesso avrebbe sistemato tutto in pochi secondi. L'errore di base fu quello di non controllare bene il cronometro, quindi hanno dovuto decidere in fretta, e il fatto di aver cambiato la rimessa in campo da una parte e dall'altra sicuramente avrebbe stato grande sorpresa in tutti noi, perché pensavamo che la partita fosse finita in quel momento. Senti, quando io andavo a suonare nell'Unione Sovietica, prima quando si chiamava ancora Unione Sovietica, mi ricordo che portavo jeans e cose del genere e in cambio mi regalavano il caviale, la vodka, eccetera eccetera. Questo te lo dico perché poi Alexander Bielov fu arrestato per contrabbando di jeans. È probabile che volessero metterlo in condizione di non nuocere prima che andasse a giocare da qualche altra parte. Però è vero che in quegli anni anche gli atleti facevano questo tipo di scambi con gli atleti dell'altra parte della cortina? Ma certamente, cioè quella era proprio la parte più bella della partita. Certo. Quando noi andavamo a giocare a Mosca con Varese, allora Mosca pagava tutto il vitto e alloggio, eccetera, sì, per non avere problemi della valuta. Certo, il rublo non convertito. Esatto. Sì. Quando venivano loro a giocare succedeva la stessa cosa a Varese. Sì. Però loro cosa facevano? Venivano di qua a Varese, si facevano pagare il bonus di ogni pasto e si facevano dare i contanti. Certo. Così quando poi loro tornavano in Unione Sovietica li cambiavano al mercato nero e ricavavano il doppio o il triplo. Certo, la prima cosa. Sì. La seconda cosa, chiaramente loro portavano caviale, vodka, macchine fotografiche. Sì, già. E noi compravamo, abbiamo fatto delle scorpacciate di caviale incredibili, cosa che adesso non è più possibile. No, lo so, anch'io, lo rimpiango, lo rimpiango moltissimo. Le famose scatole blu bravissimo, con la gomma rossa. Bravissimo, quelle lì. Grazie Dino, sei stato grazie gentilissimo, grazie. Grazie mille, a presto. Alexander Bielov, un eroe che ha vissuto con intensità la vita e soprattutto quei 3 secondi della sua vita, e che poi ha subito le ingiustizie di tutti quelli che sono vissuti sotto regimi comunisti, insomma ingiustizie che gli hanno impedito di volare molto più in alto. E poi c'è questa sua morte molto misteriosa avvenuta solo a 26 anni. Noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcoelgabbiano@radio24.it. Se anche voi conoscete una storia che volete che io vi racconti, e poi potete interagire sui miei social, Facebook, Twitter, Instagram, sui social della trasmissione e su quelli di Radio 24, insomma, se mi cercate, lo sapete, mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.